Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera parliamo di biometano. Il metano, come sapete, è uno dei combustibili meno inquinanti e più ricchi di idrogeno di cui disponiamo. Basti ricordare che ogni molecola di metano che viene bruciata ne produce due di acqua e una di anidride carbonica. C'è il metano di origine fossile, ma come sapete il metano viene anche prodotto da un'infinità di microrganismi quando decompongono materiale organico come prodotti o scarti agricoli, deiezioni animali, eccetera, eccetera. Un fenomeno che può essere accelerato grazie ad appositi digestori, cioè bioreattori che hanno come scopo proprio la produzione del biometano. Questa pratica è già ampiamente diffusa un po' in tutto il mondo e tuttavia è ancora largamente sottoutilizzata. Ebbene, venerdì scorso a Verona, nel corso della prima giornata nazionale del biometano, organizzata dal Consorzio Italiano del Biogas, da AIEL, Legambiente, Assometano e tanti altri, ancora si è discusso proprio di questo, cioè di come si possa sfruttare appieno, perlomeno in Italia, questo potenziale. Ne parliamo con Piero Gattoni, presidente del Consorzio Italiano del Biogas. Buonasera Gattoni. Buonasera Melis, buonasera. Allora Gattoni, vediamo un po', voi avete lanciato una proposta direi piuttosto precisa venerdì scorso a Verona, se ce la vuole raccontare. Ma molto volentieri, innanzitutto come sottolineava lei è il risultato di un gruppo di lavoro che rappresenta esponenti del mondo della produzione agricola, del mondo industriale, della ricerca. E soprattutto è frutto di un lungo lavoro di confronto con quello che è la panoramica ormai a livello internazionale di esperienze diffuse. La nostra proposta parte da una considerazione molto oggettiva, cioè che il nostro paese ha una potenzialità, partendo comunque da matrici agricole, quindi culture dedicate, partendo da sottoprodotti dell'azienda, dell'agroindustria, partendo dai, soprattutto dai rifiuti zootecnici, che è un altro grandissimo potenziale. Noi stimiamo un potenziale di 7-8 miliardi di normal metri cubi di biometano producibili in Italia. Questo tanto per dare un'idea all'ascoltatore, si parla del 10% del consumo nazionale annuo, esatto. Di metano esatto, ed è uguale a quello che già noi produciamo come gas naturale in Italia, quindi diciamo questo è comunque una quota importante che potrebbe comunque contribuire a raggiungere, a migliorare l'indipendenza energetica del nostro paese, oltre a innestare tutta una serie di percorsi virtuosi di sviluppo sia dell'industria italiana che di crescita del PIL agricolo. Noi stimiamo una crescita del 4-5% in questo settore. Del PIL agricolo. Ecco, che tipo di colture e quanti terreni servono? Perché voi proponete proprio delle colture dedicate, alle quali poi si possono aggiungere tutta una serie di altre robe, no? Gli scarti, quello che arriva. Ma diciamo, siccome questi batteri sono contenti quando hanno una dieta abbastanza regolare, voi dite, diamogli una, come dire, una base di alimentazione costante tramite queste colture dedicate e poi tutto quello che riusciamo a buttarci dentro, grasso che cola. Ma qual è la coltivazione di base della quale stiamo parlando e che superfici sono richieste? Ma le stime che noi abbiamo fatto sul potenziale partono da un impiego di circa 400.000 ettari di terreno, di culture cosiddette dedicate, cioè culture diciamo coltivate a fini energetici. Queste culture sono principalmente cereali, ricordiamo il mais, per esempio triticale, per esempio autunno vernini tipo frumento, e poi potrebbero essere anche altre culture pluriennali, tipo il miscanto. Quello che noi sosteniamo fondamentalmente è che questa parte di produzione sia una parte assolutamente compatibile con quello che potrebbe essere lo sviluppo che l'agricoltura ha avuto. Non si dimentichi che erano 200.000 gli ettari non coltivati solo qualche anno fa, pagati dalla Comunità Europea per sì, non coltivare. Set aside. Esatto, e 200.000 sono i terreni delle barbabietole da zucchero che noi abbiamo perso per effetto delle della chiusura degli zuccherifici. Insomma, voi dite che questi 400.000 ettari, che sono circa l'8% del seminativo italiano attuale, in realtà si possono trovare senza entrare in competizione con l'uso food, quindi per alimentazione. Sì, secondo noi è un livello assolutamente non crea problemi, insomma. Crea problemi. Senta, uno dei problemi che c'è stato sui biocombustibili di prima generazione è proprio che però si sono utilizzati, io lo devo proprio chiedere, cereali e quant'altro, che sono culture molto intensive, quindi richiedono un grande sforzo anche energetico per essere prodotte. Con i biocombustibili di prima generazione, se pensiamo all'etanolo, le cose non hanno funzionato molto bene. Qui col biometano non c'è il rischio di ripetere un'esperienza negativa? Ma abbiamo alcuni punti a nostro favore. Innanzitutto il processo è un processo molto meno energivoro, quindi a questo punto la resa per ettaro trasformata in carburante è più del doppio. Secondariamente dobbiamo considerare che la taglia di impianto è una taglia molto più piccola, che ben si addice a quella che è la segmentazione del sistema agrario italiano, quindi è una taglia che permette una generazione diffusa di vari impianti piuttosto che la grossa centrale, che poi crea qualche difficoltà in più nel reperimento La filiera può funzionare, mentre è molto difficile che funzioni con altre produzioni che richiedono centinaia di migliaia di tonnellate di materiale l'anno. È più complicato, sicuramente più complicato. Inoltre noi abbiamo in Italia una grossissima competenza industriale, per cui noi riteniamo che ci siano dei grossi spazi anche di miglioramento. Senta, non a caso voi avete fatto in questo periodo però questi stati generali, chiamiamoli così, del biometano, perché si attendono i famosi decreti attuativi della legge 28 dell'anno scorso, che dovrebbero stabilire quali sono i criteri, per esempio, per l'immissione del biometano in rete. Allora, quali sono le vostre richieste? Di che cosa c'è bisogno per far partire tutta questa filiera? C'è bisogno che il sistema sia chiaro e si dia la possibilità di poter accedere alla rete del gas naturale in sicurezza, con anche impianti di biometano. Ecco, noi da lì potremo partire per costruire un percorso importante anche sul biometano, tenendo presente che oggi più che di incentivi noi chiediamo regole certe per poter incominciare lo sviluppo del settore. Grazie Gattone. Grazie a voi. È tutto, a domani.